Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Davide Gatti e Simone Pizzi. E carissimi amici di Runtime, come vi avevamo promesso, una settimana sì, una settimana dopo, no, insomma ritorna il nostro fantastico programma Quando eravamo il futuro, Quando eravamo futuro, come lo vogliamo chiamare, non fa niente, non ci importa, insomma, che è questo programma, diciamo, di società e cultura, anche se spazio temporalmente dislocato negli anni 70 e 80, appunto, dove cerchiamo di parlare di quella società e anche confrontarla un po', un minimo, insomma, con quello che poi era in realtà la società di oggi. Tra l'altro, in riferimento a questo, nella scorsa puntata di Runtime by Night abbiamo fatto alcune riflessioni sempre sul fatto dei cellulari, del come muoversi, come organizzare i viaggi e via dicendo, e qualcuno ha detto: io oggi non mi immagino neanche il fatto che possa sia esistita una società nella quale non c'erano i cellulari. E in questa discussione c'è entrato in mezzo Davide Gatti. Ciao Davide. Ciao, buonasera a tutti. Perché ci sei entrato? Perché Davide ci ha raccontato il suo bellissimo e famoso viaggio verso Riccione, che è stato un viaggio complicato, e quel viaggio praticamente sarebbe stato, diciamo, più facile avvisare delle varie complicazioni tutto il resto della carovana se ci fossero stati ovviamente i mezzi di oggi, che allora non c'erano, no? Esatto. E quindi si dava pensa che su questo argomento proprio stasera mia moglie mi ha fatto presente della trasmissione del collegio, quella che Carlo conosce benissimo, che ha fatto vedere dei ragazzi di fronte a un telefono degli anni 60 o 50, e gli ha detto: telefonate pure a casa. E prendevano in mano sta cornetta, la guardavano, faceva il combinatore a disco, diceva: ma io il numero dei miei non lo so. Che tra l'altro, so qual è il numero. Comunque. Cioè, erano fermi alla composizione. Sì, no, ma quello me lo immagino, perché oggi, se devo dire, anch'io faccio fatica a pensare, a ricordarmi magari due o tre numeri, però una volta li sapevo tutti a memoria, quelli degli amici miei, tutti, sì. Capito? Carlo Sant'Agostino. Ciao a tutti, buonasera. Sì. Davide, hai citato il collegio, sì, che è iniziato la prima puntata, è iniziata ieri. Ripeto, per quelli che me lo chiedono, non ci sono. No, non ci sei, perché nel 58... è ambientato nel 58, e esatto. Invece informatica sarebbe stato leggerissimamente, diciamo, anacronistico. Pensa. Noi abbiamo qualcosa del 58 informatico come retrocampus o archeologia informatica? No, del 50... ma non a scuola. La voglio dire, non credo. Sì, no, nelle scuole no. Tu dicevi, Davide, come il reperto. Sì. Abbiamo, sì, sai quello che volevi comprare anche tu, le valvole termoioniche, quelle dell'IBM, quelle sono di quel periodo lì. Che poi era quelle che usavano quel robottone, no? Valvole termoioniche, capito? E uccideva tutti, capito? Insomma, vabbè. Comunque, ragazzi, e ancora una volta ci troviamo a fare anche un po' di conversazione. Non sarà una puntata lunghissima, perché comunque il tema è, diciamo, abbastanza ristretto, e anche se chiamerà in causa quelli che poi saranno degli episodi futuri, però ancora una volta ci troviamo magari a fare delle riflessioni sulla velocità e la trasformazione che c'è stata negli anni 70 e 80, e quanto ancora una volta la televisione è stata protagonista di questo in qualche maniera, se non dal punto di vista semplicemente magari economico, anche dal punto di vista proprio strettamente culturale, perché il permettere alle persone comuni di qualsiasi stato di entrare in contesti che altrimenti probabilmente non avrebbero mai potuto vedere, perché insomma ricordiamo negli anni 70 non è che si viaggiava come si viaggia oggi, insomma, cioè, fare un viaggio voleva dire impegnare soldi, impegnare tempo, e quindi ecco, insomma, diciamo, la televisione ha portato nelle case degli italiani, degli svizzeri, dei francesi, dei tedeschi e via dicendo, tutta una serie di situazioni, contesti e esperienze che altrimenti non sarebbero state possibili. E ancora una volta, appunto, la televisione, che da strumento politico di propaganda è diventato anche strumento commerciale da un certo punto di vista, e poi è diventato anche strumento culturale. Quindi l'importanza ancora una volta di questo strumento che per, diciamo, insomma, 50 anni ha spopolato ed era ovviamente il simbolo, diciamo, l'elemento fulcro anche dell'informazione. Oggi sappiamo che la televisione non ha più forse quella posizione predominante da quel punto di vista, così come una volta, però forse ancora oggi, Carlo, io non lo so, penso che comunque le persone anziane ancora lo utilizzino come fonte di verità, no? Mio suocero passa le ore davanti alla TV, perché lui è appassionato di sport. Uh-huh. Non fa sport, ma guarda gli sport, no? È come quelli che vivono, esatto, ciclismo, sì, qualunque, sì, sport possibile e immaginabile, e vive ancora con il televideo lui. Vabbè. Ah, urche, è vero. Beh, il televideo, guarda, devo dire che la sua fonte di informazioni primarie è il televideo. Il televideo, che voglio dire, cioè, ti devo dire che il televideo stranamente è ancora più usato di quanto io mi aspetta, cioè è usato pochissimo, ma io pensavo che fosse proprio sparito, invece in realtà no, c'è tantissimi anziani e la loro, sì, ancora forma, anzi grande tecnologia, esatto, interattiva, pensa, esatto, che gli abbiamo regalato uno smartphone, non c'è niente da fare, cioè lui proprio, no? Cioè, lo usa come telefono forse qualche volta, vabbè, però ci sta per una persona anziana e da una generazione, sì, veramente totalmente lontana, no, da questo. Sì, però sai, ci sono, per esempio, mia suocera, cioè, sono due anni di differenza, però lei invece WhatsApp, poi certo, come al solito ti gira, gira a mia moglie, cioè, la mamma, la figlia gli gira le cose, sai, di che non fanno ridere, ma gli anziani le girano perché hanno, esatto, no, cioè, le vignette, quelle cagate, mia moglie le guarda, ma no, ma cosa giro, ma cosa guarda, mamma, ma cosa fai? Lo so, è vero. Arrivano sempre quei messaggi un po' che li guardi, dici, madonna mia, vabbè, però fai finta di niente, capisci, dai. Allora, Davide, dicono che sei un po' basso, voglia. Davide, di volume, se puoi alzicchiare, sì, leggermente, magari, sì, in qualche modo. Prima o poi lo faremo anche noi, comunque. Sì, vabbè, con i prossimi strumenti che arriveranno, quando saremo ancora più anziani, diremo, vabbè, mo basta, cioè, il mio cervello ha smesso di imparare, perché è un po' così. Comunque, dicevamo, la televisione a un certo punto nella sua storia era un po' la sorta di bocca della verità, no? Cioè, quante volte abbiamo sentito i nostri genitori o le nostre mamme dire l'ha detto la televisione, no? Cioè, però questo, se funzionava da un certo punto di vista legato a quella che è l'informazione, anche se l'argomento di cui parliamo poi in qualche maniera ha cambiato anche quel tipo di mondo lì, anche quel tipo di situazione, è cambiato, ovviamente ha dato questo input in più dal punto di vista pure culturale, come abbiamo detto. E io inizierei con una cosa così, guardate. Piano, siamo in Eurovisione, esatto, non siamo più su semplicemente su Runtime Radio, ma siamo in Eurovisione. Tra l'altro, questa, io penso adesso, questo vado un po', pure quelli che ci ascolteranno ovviamente in podcast, vado un po' alla pancia della gente, no? Che va molto di moda, diciamo, indipendentemente da ciò che significa o quello che ha rappresentato, e adesso ci arriviamo, il sentire la sigla dell'Eurovisione, secondo me, dentro ognuno di noi, chi più chi meno, per un motivo o per un altro, rievoca comunque dei ricordi, no? Perché comunque l'Eurovisione, e poi lo vediamo, è comunque legato a degli eventi importanti, no? Cioè, nel senso, comunque a delle cose che succedevano, che c'erano la loro solennità da un certo punto di vista, no? E quindi attiravano chiaramente sicuramente la nostra attenzione da quel punto di vista. E spesso e volentieri diciamo che era collegato a cose che ci... E poi questo concetto di in Eurovisione, no? Cioè non sapevamo bene che cosa, però questa dicitura di per sé gli dava ovviamente una istituzionalizzazione ancora più importante, in Eurovisione, mica... Comunque cioè, se era in Eurovisione intrinsecamente era importante, perché voleva dire che faceva parte dell'accordo interstatale della trasmissione in Eurovisione, quindi non è che per forza doveva essere importante in qualche modo, comunque importante. Sì, se poi la trasmissione era originata da noi in Italia, c'era anche questa prova di guardate che anche l'Italia è in grado di fare delle cose. Ma tra l'altro l'Italia ha avuto, diciamo, anche insomma la sua parte, diciamo, in cose che poi venivano considerate trasmesse come evento dell'Eurovisione, che l'Eurovisione poi fondamentalmente c'aveva anche un significato politico oltre che tecnico, perché era un po' la manifestazione radio e televisiva di quello che è ovviamente l'accordo dell'Unione, no? Nel senso, comunque, in un'Europa in fase di costruzione, questa tentativo di standardizzazione, di copertura televisiva più che di standardizzazione, serviva ovviamente a permettere al territorio europeo di poter trasmettere e di poter essere coperta da eventi di grande importanza, sia per quanto riguarda ovviamente Europa, ma anche per quanto riguarda Europa verso il resto del mondo e in altre situazioni ovviamente verso il resto del mondo, verso l'Europa. Cioè, ad esempio, possiamo tenere in considerazione i grandi incontri di box, le Olimpiadi, i mondiali di calcio, tutti quegli eventi che non sempre erano in Europa. E questa è una cosa abbastanza significativa, perché rappresentava proprio un momento di diciamo di condivisione, ecco. Poi al di là di tutti quelli che ci potevano essere magari i meccanismi anche politici che ci potevano stare dietro, tecnicamente poi il discorso era un po' questo. Ancora oggi poi questa sorta di consorzio dell'unificazione radio e televisioni a livello europeo ancora esiste, anche se molte cose chiaramente, come vi immaginerete, sono cambiate, no? Nell'arco dei decenni, anche perché tranne il fatto che l'Europa è ancora in costruzione, esatto. e perde pure qualche pezzo ogni tanto, esatto. Insomma, quindi, cioè, diciamo che eppure poi alla fine il Regno Unito, in quella, appunto, in quella fase ancora molto ideale, no? Mm-hmm. Dove c'era ovviamente ancora questo spirito europeista, ha contribuito tanto quanto poi tutti gli altri paesi, certo. Diciamo che l'Eurovisione parte in un momento che non è coperto da questa trasmissione, perché parliamo del 1954, noi, diciamo, insomma, ci occupiamo degli anni 70 e 80, che poi è un po', secondo me, il momento in cui questa Eurovisione è veramente entrata proprio dentro le case della gente, perché è stato perché c'è entrato anche il televisore, perché esatto, in tutte le case. esatto, esatto, era proprio quello che volevo dire, nel senso che è entrata l'Eurovisione perché è entrato il televisore, insomma, perché esatto. Ricordiamo, mio nonno mi raccontava sempre, magari la carta dopo, non so, qualsiasi cosa state facendo. Ma io non sto facendo assolutamente nulla. Colpa mia. Okay. Perché non è sempre colpa di Davide, vedi, insomma. No, mio nonno mi raccontava sempre che, per esempio, nel loro condominio, prima degli anni 70, quello che c'aveva la televisione era... Penso che si era impegnato la casa del nonno e qualsiasi cosa, e di solito questa televisione veniva messa vicino al balcone, in modo che tutti quelli che erano, insomma, sui dirimpettai se potevano... mia moglie, che è del 72, mi racconta ancora che lei da piccola la televisione era al bar. Anche se, cioè, non era in casa, o addirittura, e questo lo possiamo vedere sul Nuovo Cinema Paradiso, il bellissimo film, o addirittura nei cinema. Cioè, veniva proiettato tramite il telecine, insomma, con sto strumento, penso che anche quello sarà costato tipo insomma. Diciamo che nelle città era più facile che ce l'avesse uno nel palazzo, nella casa, e ci si radunava in 20 o 30 in una casa. Ogni tanto, mi ricordo che eravamo in tanti a vederla a casa di uno o a casa di un altro. Diciamo che uno su 10 ce l'aveva, e chi ce l'aveva si beccava i 9 vicini di casa. Sì, infatti. Allora, poi arriviamo un attimo prima a fare proprio la discussione. Chiudiamo un attimo un po' sta questione storica, che insomma è molto, molto basica poi fondamentalmente, perché cioè nel senso diamo un'infarinata, perché poi le informazioni con YouTube ve le trovate tranquillamente, poi magari cerchiamo di fare appunto dei ragionamenti e cercare anche di ricordare le cose, perché io per esempio ce l'ho i miei ricordi legati a questa cosa dell'Eurovisione, e di alcuni poi ne parleremo, cioè li citiamo ma poi ne parleremo insomma nelle prossime puntate, perché comunque dicevamo che alla fine è il 6 giugno del 1954, dove il giorno in cui viene praticamente dato il via alla prima trasmissione in Eurovisione, con questo famosissimo, io direi famosissimo, Festival del Narciso di Montreux, credo che sia in Svizzera. Svizzera, sì. Esatto, Montreux penso che si legga, insomma. E la trasmissione successiva era da Roma, quindi vedete che poi... Il Papa. L'Italia, esatto, no, prima il tour del Vaticano e poi c'era un intervento ovviamente del Papa. Da lì in poi ovviamente quali sono stati i principali programmi dell'Eurovisione? Beh, uno, cioè prendo un esempio a caso così proprio, Telespettatori italiani, buonasera, è con grande emozione che prendiamo la linea dai bordi del campo dello stadio Bernabéu di Madrid per la finale del campionato del mondo 1982. L'Italia, dopo un inizio incerto, ha conquistato lo slancio per disputare questa finale. I nostri avversari sono i tedeschi dell'Ovest. Sono presenti in tribuna il presidente Sandro Pertini. Grande Sandro Pertini, io farei notare subito i tedeschi dell'Ovest. Che esatto, la cosa che mi ha colpito di più è i tedeschi dell'Ovest. Beh, Germania dell'Ovest. Due Germanie. Esatto, cioè in un'epoca in cui esistevano due Germanie, esatto, cioè la Germania dell'Est e la Germania dell'Ovest, quindi la Repubblica Popolare Democratica e la Repubblica Federale Tedesca, che erano ovviamente la parte occidentale, quindi quella chiaramente che guardava all'Occidente, e quella invece poi gestita insomma dal blocco sovietico, quindi dal comunismo fondamentalmente. Ed era abbastanza interessante come cosa, perché anche questo è un altro elemento di grande trasformazione, no? Di quello che, come noi abbiamo già citato, la Cecoslovacchia, tutta la Jugoslavia, tutto quella diciamo grande trasformazione geopolitica che c'è stata poi ovviamente in particolare in Europa, perché poi l'Europa è sempre quella un po' più in fermento da questo punto di vista, no? Ecco, però l'Eurovisione, l'eco dell'Eurovisione a volte era il segnale che stava per iniziare qualcosa di importante. Tante volte io, uno dei miei primi ricordi, poi vorrei insomma condividere anche con voi, era il al mare d'estate, il caldo, la sera, subito dopo cena scendevi, salutavi gli amici, poi sentivi il suono dell'Eurovisione e correvi su, perché in particolare quella sera dell'11 luglio del 1982 c'era la finale della Coppa del Mondo tra Italia e Germania dell'Ovest, appunto come abbiamo sentito in questo momento, dove poi noi diventammo campioni del mondo. Campioni del mondo, esatto, del mondo. Ripetuto tre volte, perché era perché eravamo campioni del mondo per tre volte, adesso ne abbiamo 25 mondiali, penso che no. E no, 4. Comunque, questo è un po', insomma, diciamo uno dei primi input per me che hanno un certo significato. Però poi ovviamente vediamo un po' chi indovina. Altro grande evento che veniva trasmesso tramite la televisione italiana. Non ci arrivate? No. Io sì, perché ve l'hai detto. Vai, dillo. Lo Zecchino d'Oro. Esatto. Lo Zecchino d'Oro, il Festival di Sanremo e il Palio di Siena erano i tre eventi italiani di maggiore rilevanza che venivano trasmessi tramite Eurovisione, che significa che il resto dei paesi d'Europa si sbabbavano sta roba. Ma il Zecchino d'Oro lo posso anche capire, insomma, il palio di Siena pure, però il Festival di Sanremo, insomma. Poi, e pensa che mi sa che tra i tre era quello più visto. Probabilmente sì, anche perché penso agli anni, o forse anni 70-80 magari già c'era un declino, però sai, negli anni 50-60 secondo me la canzone italiana ancora c'aveva un suo grosso valore, insomma, no? E poi che poi, come ho raccontato ai tempi con la trasmissione che ho fatto con Michela sull'Eurovision Song Contest, e nacque proprio da Sanremo l'idea dell'Eurovision. Infatti l'Eurovision Song Contest, non a caso proprio grazie, cioè il nome ce lo dice, è uno degli eventi che veniva trasmesso, o forse è stato uno degli eventi che ha magari motivato, no, l'Eurovisione in qualche maniera, cioè quindi poi alla fine comunque rientrava, insomma, quindi tra le varie trasmissioni quando iniziava l'Eurovision Song Contest c'era ovviamente la mitica sigla straordinaria, che tra l'altro ancora esiste, anche se oggettivamente diciamo non viene più trasmessa, cioè esiste ancora, viene ufficialmente trasmessa, ma non vengono poi gestiti dalle televisioni, insomma, che oramai ovviamente fanno un po', diciamo, oramai tipo chi fa gli eventi sportivi ad esempio ha il proprio apparato che spesso si muove rispetto a quello che era una volta, che c'era comunque un'emittenza che trasmetteva e trasmetteva per tutti, insomma, quindi è un po' più complicato oggi da questo punto di vista. Ma poi c'è un'altra cosa di cui parleremo nelle prossime puntate. Vediamo chi indovina. Che hai detto? Cos'era? Giochi senza frontiere. Certo che era Giochi senza frontiere, sì. Mi ricordavo. Esattamente, Giochi senza frontiere, di cui abbiamo spoilerato, faremo una puntata speciale proprio dedicata a Giochi senza frontiere, perché secondo me non soltanto idealmente aveva la sua importanza, e ce l'aveva comunque, ma perché comunque era un appuntamento per molti di noi ragazzini assolutamente imperdibile, cioè perché era comunque quel modo di fare, diciamo, come posso dire, una sorta di sport competitivo però giocoso, era quasi un videogioco se tu ci pensi, Carlo, no? Sì, in effetti sì, somiglia molto, diciamo, al concetto di videogioco, se vogliamo, come tipo di sì, con i quadri e sì, perché facevano praticamente livelli, se vuoi, esatto, facevano praticamente queste competizioni sportive di corsa, di raccolta di cose in ambientazioni scenografiche particolari, tipo dentro il formaggio, dentro, insomma, ed erano bellissime, cioè Giochi senza frontiere, noi eravamo delle pippe incredibile, cioè devo dire la verità, cioè, non credo che esista una puntata di un'edizione, quindi non te dico una puntata di un'edizione di Giochi senza frontiere che l'Italia ha vinto, però era comunque bello da vedere perché comunque facevi anche un po' il tifo, c'era anche questa motivazione. C'era sempre la speranza, però c'era sempre la speranza. Esatto. Poi un'altra delle cose che veniva trasmessa, e qui chiudo un po' questo cappello introduttivo, era ovviamente, non poteva essere, insomma, cioè te pare, no? Che ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. Appena è cominciato il pericolo per me. Ecco, io vorrei far notare una cosa importante, no? Questa è la prima, il discorso di insediamento di Papa Giovanni Paolo I, che è il Papa che è venuto prima di Carlo Luotivo, e che è il Papa che è durato poco. Tutti dicevano il Papa buono, no? Quello che comunque alla fine tutti un po' gli volono bene, e che insomma c'è tutta una vasta letteratura, diciamo, complottistica sul fatto che sia stato ucciso, probabilmente magari è anche vero, non lo sappiamo, però la cosa bella sta proprio in questo discorso, quando lui dice il pericolo è appena iniziato per me, cioè è incredibile che lui dica sta cosa, che poi che è morto tipo 30 giorni dopo l'elezione, sì, un mese dopo sì. Braccio. incredibile, e questa è insomma una delle tante storie misteriose che magari, che so, magari è stata la CIA, magari è stato il KGB. Vabbè, lo so. Adesso non complottiamo, ma il no, complottismo, lo sai che scherzo, sto scherzando, lo dico ridendo, se no. Però insomma, certo, no. Questa cosa, no, questa frase alla quale tutti si sono un po' attaccati, no? Cioè, fatto il pericolo appena iniziato per me, ed era divertente, cioè nel senso, qua alla fine come fai a non, cioè anche se tu non sei un complottista e senti il complottista, guarda, ti faccio sentire una cosa, e questa è la frase insomma alla quale tutti sì. Insomma, quindi anche i discorsi del Papa venivano trasmessi in Eurovisione. Ovviamente, che mi è venuto in mente una cosa prima che poi non ho fatto in tempo a dire, che sei partito subito con la sigla dell'Eurovision quando hai detto prima che per molti anziani era una cosa era vera perché l'ha detta la TV, no? Quando l'hai detta mi è venuto tipo un'illuminazione, perché ho detto è scritto su Wikipedia e The New l'ha detto la televisione. Sì, sì, no, ma infatti io nel... è scritto su Wikipedia, esatto, quindi è vero. Per esatto, ma, no, ma questo è in realtà è l'introduzione che ho fatto. Io ho detto comunque la televisione per 50 anni era la verità, no? Oggi ovviamente le cose sono cambiate, la verità è sì, per alcuni ancora la televisione, poi è Wikipedia, è Facebook. Oggi è venuto un cliente in agenzia che ha detto che noi paghiamo gli immigrati 1000 euro al giorno perché lui è collegato con i gruppi della polizia su Facebook, quindi lui lo sa. Che poi, cioè, sicuramente quei gruppi della polizia saranno un fake incredibile, però non fa niente. E quindi oggi ovviamente la verità è un'altra cosa, quindi non è il social media, è che purtroppo la gente ha questo approccio nei confronti dei nuovi media che arrivano e ti dicono la verità. Anzi, oggi forse ha maggior ragione, perché mentre che prima la voce era un po' più univoca, qui oramai il primo che è stronzo che apre un blog ti dice la sua verità, insomma. Quindi voglio, ci siamo molto divertiti, perché su Diretta Runtime abbiamo discusso del mitico film Creators the Past con William Shatner, che non è mai uscito. Non è mai uscito. Esatto, insomma, anzi è uscito per una settimana nelle sale, è stato massacrato, e insomma, quindi c'è tutto un discorso di complottismo, perché diceva che racconta la verità su chi sono i veri, diciamo, da dove proveniamo noi, insomma. Certo, come no. Esatto. Comunque, grandi eventi trasmessi, insomma, tutti gli eventi storici da un certo punto in poi, quindi noi ci possiamo mettere anche l'atterraggio sulla Luna, ad esempio, anche se non è un discorso che rientra, diciamo, nella nostra... nel nostro range. I giochi senza frontiere abbiamo detto, i mondiali di calcio e le olimpiadi, sì, tutti. Sì, diciamo che c'è una distinzione da fare tra gli eventi che venivano trasmessi in Eurovisione e i programmi prodotti apposta per l'Eurovisione. Esatto, certo. Quello di cui tu stai parlando sono i programmi prodotti apposta per l'Eurovisione, che sono appunto l'Eurovision, Giochi senza frontiere, eccetera, esatto, che sono stati, sì, programmi prodotti da questo consorzio che non mi ricordo come si chiami, EBU si chiama il consorzio, EBU. European Broadcasting qualcosa. Sì, comunque alla fine comunque era l'unione della radio e della televisione europea, e ovviamente sì, poi, sì, quindi già 50 sdominioli poi alla fine comunque della radio e della televisione europea, perché comunque ricordiamo che allora cioè radio veniva comunque considerata ancora più nobile della televisione, veniva considerato prima comunque come... Sì, beh, in realtà l'EBU e l'Eurovision nasce dalla precedente unione delle radio europee. Esatto. È nata prima che ci fosse la televisione, si chiamava IBU prima e poi è diventata EBU appunto, però e poi BUBU. No, vabbè. Il discorso che è nata la televisione intanto che questo già c'era, quindi certo per certo. La radio era importante. Poi magari, cioè, magari comunque la sperimentazione sulla televisione sarà stata magari leggermente più lunga, proprio perché comunque tecnicamente, no? Noi abbiamo, non so se abbiamo, ne abbiamo parlato, ma penso di sì, della prima trasmissione della Rai, che era in realtà una trasmissione dove c'era uno a Milano che diceva qui Milano, Roma mi senti, e Roma diceva sì ti sento, magari con quei due secondi di lag, no? Che chiaramente erano, perché oggi queste cose non esistono praticamente più, però è comunque affascinante. Se siete appassionati, ricercate su YouTube, pure sono anche mini documentari, cose carine sulla storia della televisione, perché è veramente affascinante proprio i primi passi, i primordi della televisione. E come abbiamo detto, poi in Italia in particolare gli anni 60 e 70 nonostante quella che è il nostro strato culturale che magari a volte critichiamo, in realtà dal punto di vista televisivo abbiamo fatto molta, moltissima sperimentazione, e questa era una cosa ovviamente positiva, perché chiaramente l'emittente pubblica veniva utilizzata per questo. Poi chiaramente sono arrivate poi i canali privati, che hanno portato nel bene e nel male, no? Tutta una serie di vantaggi e poi anche di degenerazione, no? A un certo punto di vista, perché chiaramente dopo è diventata una gara commerciale, non è più diventata una gara al contenuto, al content, insomma, no? Quindi questo insomma è un po' un dispiacere. Esatto. Bene, bene, bene. Voi invece che ricordi, avete qualche ricordo, qualche volta che siete corsi a casa perché sentivate l'Eurovision che arrivava? Correre no, però sicuramente tutte le volte che si sentiva quella sigla sapevi che dopo sarebbe apparso qualcosa di importante, che anche se non ti interessava più di tanto lo guardavi solo perché questa cosa è, ci siamo qua tutto il mondo che siamo qua davanti a vedere la stessa cosa. Io ricordo più anche che mi piaceva curiosare e capire come gli altri paesi facevano la televisione, nel senso, se eravamo noi l'origine, come dicevo prima, eravamo noi che facevamo vedere al mondo, all'Europa, insomma, come eravamo in bravi o in grado di fare la televisione. E a dire la verità, in quel periodo forse ero più filo altri paesi che filo italiano, e quindi ammiravo più quello che facevano gli altri rispetto a quello che facevamo noi in casa. E quindi non è che ero orgoglioso della trasmissione italiana che andava nel mondo, ma ero più gasato nel vedere la trasmissione della Germania, della Francia, piuttosto che della Svizzera o di altri paesi europei, o addirittura le trasmissioni americane, e vedere come erano loro attrezzati. Lì si vedeva spesso la differenza tra i contenuti, la qualità, gli effetti, il ritmo delle trasmissioni era diverso, si vedeva la differenza. Adesso non so neanche io spiegarle, però all'epoca si vedeva la differenza tra una trasmissione fatta da un altro paese rispetto al nostro. Non eravamo molto omologhi, pur essendo in Europa, e in qualche modo il consorzio cercava di, credo, regolarizzare le cose. Non ricordo bene, però magari voi vi ricordate come erano gestite le pubblicità. Cioè, ci vedevamo le pubblicità dei paesi stranieri o riuscivamo? No, non c'erano le pubblicità. Non c'erano proprio le pubblicità. Ah, non c'erano proprio, vero? No, non c'erano le TV private, erano TV statali che facevano l'Eurovisione e basta. No, per esempio negli eventi sportivi c'era l'evento sportivo dall'ora X all'ora Y, e poi dopo si andava al telegiornale, e poi sicuramente sarà stato pure qualche spot pubblicitario. Sì, ma in ogni caso erano tutte... Non vedevi l'Eurovisione su... Anche quando sono nate le TV private non c'era l'Eurovisione su Canale 5, c'era solo sulla Rai, e la Rai all'epoca era... non c'era la pubblicità era relegata al carosello. Cioè, sì, diciamo che al limite c'era le pubblicità di cartelloni o di qualcosa di visibile, perché, durante la trasmissione, perché riprendevi un cartellone che era comunque cosa. Al di là di questo, la cosa che tu, per esempio, no, magari il ragazzino non esperto che non conosceva come funzionano le cose, per esempio abbiamo sentito prima, no, nella telecronaca di Nando Martellini, no, al Santiago Bernabéu da Madrid, che è Madrid, cioè nel senso che stava a parlare di Mosca o di Tokyo. A Madrid per noi era tipo a 8 miliardi di chilometri di distanza. Esatto, infatti era quello che tu sentivi già l'audio e anche il video, cioè nel senso, comunque la qualità complessiva del tutto, si vedeva che cioè, era come se arrivasse da chissà dove, no? Nel senso, perché però arrivava da chissà dove. Fatica a telefonarci tra Milano e Roma, una trasmissione da... esatto. Infatti, quando poi questi eventi venivano trasmessi ancora più lontano, ho visto tantissimi video poi successivamente a posteriori, no, tra essere in bianco e nero a colori dei mondiali in Messico del 1970, e anche gli audio originali, anche lì il video originale, insomma, comunque si vedeva, cioè, proprio le scie, le persistenze, le cose, quest'audio che sembrava dal telefono dei nonna in cariola da chissà dove, ed era bello perché comunque quello ti dava la percezione dello sforzo, no, guarda che cosa abbiamo messo su, cioè ti dava proprio quella, quel tipo di sensazione lì, capito? Cioè quando sentivi la sigla e sentivi il telecronista che parlava dall'oltretomba, dicevi oh, questi stanno proprio, guarda che roba, no? Questo fantascienza. Assolutamente fantascienza, e questa è una delle cose insomma che ma sempre, che poi consideriamo in un periodo completamente analogico, dove probabilmente, come dicevate voi, si trasmetteva per ponti radio, quindi... Sì, sì, sì, togli probabilmente, era, quei disturbi lì li vedevi proprio perché era tutto un rilancio del segnale da un ponte radio a un altro, in cui appunto questi grandi consorzi, IBU, EBU, eccetera, servivano proprio per mettersi d'accordo sulle frequenze da utilizzare per il rilancio dei ponti radio, perché se poi ogni nazione avesse fatto, diciamo... i cacchi suoi nell'utilizzo delle frequenze radio televisive, ovviamente ci sarebbero stati disturbi, casini, eccetera. Invece questi consorzi servivano appunto per dire questa frequenza qua la utilizziamo per fare il ponte radio tra la Germania, certo, e la Francia, certo, e poi tra la Francia e l'Inghilterra e così via. Quindi no? Sarà stata, quindi, anche una costruzione di infrastrutture alla fine, immagino, no? Perché un minimo, sì, no? Allora, le infrastrutture venivano comunque costruite dagli stati interni internamente per trasmettere la radio televisione, okay, all'interno dello stato stesso, e poi tra un confine e l'altro bisognava fare gli accordi in modo da rilanciare questo segnale, in modo da farlo poi e coordinarsi ovviamente, e il consorzio dell'Eurovisione nasceva per questo, cioè proprio per dire mettiamoci d'accordo così noi possiamo trasmettere una cosa contemporaneamente in tutti gli stati. Poi ovviamente questa veniva ospitata poi nella visione domestica dai canali televisivi nazionali di ogni stato, quindi la RAI apriva, diciamo, le porte a questo segnale che arrivava ripetuto tra i vari ponti radio che stavano all'esterno, diciamo, dello stato italiano, così via. Insomma, era un bel casino comunque. Sì, che poi come i piedi è inimmaginabile, esatto, adesso. Esatto, no, poi quando è arrivato il satellite è stato tutto facilitato. Sì, poi infatti dopo volevo fare una domanda pure su questo, perché ricordo poi le trasmissioni dove abbiamo poco tempo, perché poi cade il satellite, no? Perché cioè, tu immaginavi sto satellite che cascava, in realtà ovviamente erano degli slot previsti. Cioè. Esatto, beh, probabilmente diciamo passava sopra in quel... abbastanza credibile che cadevano i satelliti. Sì, no, vabbè, ma secondo me, guarda, è più facile che cadano oggi che abbiamo riempito dei satelliti. È vero. Che prima o poi cade sicuramente uno al giorno, probabilmente. Prima o poi vanno a sbattere uno con l'altro lì. Quelli che ha lanciato Musk negli ultimi anni, è ridicolo. Avrà lanciati su 837.000. È quasi criminale come cosa. Volevo ricordare che nonostante tutti gli accordi, tutto quello che si vuole, esistono alcuni paesi, tra cui la Francia e forse qualcun altro, il Belgio, che ne so, che avevano lo standard differente, esatto, che vuol sì, di questo anche le conversioni tra del segnale in uscita e in ingresso. Per fortuna era una differenza non così grave quanto l'NTSC e il PAL, ma il SECAM e il PAL cambia solo la frequenza del bus colore, ma poi è tutto ma le, concettualmente, Davide, era la stessa cosa, perché tu in ogni caso cambiava poco o cambiava tanto, tu il segnale tra l'entrata e l'uscita lo dovevi convertire. Quindi, sì, sì. E negli accordi appunto di rilancio eccetera c'erano anche le centraline di conversione posizionate in entrata e in uscita sui ponti radio a cui serviva, che poi infatti poi secondo me in mondovisione che arrivava dagli Stati Uniti arrivava qua da noi, che era una schifezza da vedere, però vabbè, a quell'epoca andava bene, quindi sì, poi arrivava dall'America, ragazzi, accontentiamoci, esatto. No, però diciamo che quando alcuni segnali, cioè alcune trasmissioni venivano da determinati paesi, se vedi, cioè per quanto ci fosse una conversione c'era comunque un impatto col colore, no? Cioè diverso, cioè tu lo percepivi che c'era qualcosa di diverso, no? E questa cosa poi, tra l'altro, tutto basato, come diciamo, su ponti radio, no? Che poi i ponti radio sono stati il pilastro sulla quale si sono basate le comunicazioni per, penso, quasi 50 anni, forse anche di più, e forse ancora oggi in parte ancora oggi però i satelliti danno un aiuto. Però tu immagina comunque una trasmissione di un evento importante che poteva anche essere compromessa da, che ne so, problemi di cattivo segnale per motivazioni anche esterne, no? Meteorologiche, anche perché insomma comunque l'onda radio, cioè alla fine viene comunque trasportata nell'aria, no? Quindi cioè, alla fine ci possono essere tutta una serie di limiti. E capitava insomma ogni tanto che magari ci fossero dei problemi, interruzioni oppure che si vedeva o non si sentiva, o si sentiva e non si vedeva, sono tutta una serie di problematiche che comunque erano poi il fascino di un qualcosa. Secondo me, questa è la mia opinione, ogni volta che un tecnico o un team di tecnici si mettevano lì, che stavano per spingere ok, il tasto rosso per avviare la trasmissione, si cagavano tutti in mano, perché tutto facevano il segno della croce, poteva succedere qualsiasi cosa. Cioè, immaginare che erano tante centinaia di persone, ciao Rose, ma forse che migliaia di persone in tutta l'Europa, perché in Italia magari erano una trentina, una quarantina, una cinquantina di persone, in ogni paese così, alla fine c'era un via vai, e poi magari nei primi tempi era tutto, funzionava tutto con tecnologie e quello che c'era, poi man mano che siamo andati avanti c'erano sicuramente che dei backup, c'era sicuramente anche tutta la situazione che consentiva di rendere la trasmissione più affidabile, però all'inizio era veramente più pionierismo totale, e si andava, non dico a tentativi, ma insomma l'organizzazione c'era, ma era complicata, anche perché già telefonarsi era complicato. Sì, no, ma io penso che c'era proprio l'imponderabile, no? Cioè, nel senso, alla fine, cioè, tu, per quanto tecnicamente avessi messo tutto a puntino, io mi ricordo molte foto nei libri che raccontano comunque la storia della Rai, dove c'erano tutti sti macchinari, in tutti sti ingegneri che stavano lì, e secondo me tutti che smadonnavano, perché sì, cioè, no, ma infatti mi è venuto in mente, cioè, tutto questo discorso mi ha fatto ritornare in mente una cosa che, quando adesso la dico voi ve la ricordate benissimo, ma se la dicessi a mia figlia mi guarderebbe con gli occhi da triglia dicendo che cosa stai dicendo. Cosa il dici? Famoso cartello, le trasmissioni riprenderanno il prima possibile, il prima possibile, assolutamente sì. Tra l'altro noi dobbiamo considerare, questa è una cosa poi interessante, che molti di questi cartelli erano ripresi da telecamere, no? Poi dopo è subentrata la parte elettronica, no? Cioè, nel senso, molto dopo. Però prima, e addirittura, e questo lo vedete se andate a cercare i filmati degli anni 70 degli eventi sportivi, addirittura anche le sovraimpressioni non erano elettroniche. Nel senso c'era la scritta che si vedeva che era una diapositiva, cioè nel senso, poi il modo in cui veniva sovraimpressionata sull'immagine televisiva, quello magari non so come funzionava e via dicendo. Era il chroma key analogico. Analogico, ok, a posto. Il chroma key analogico, che è durato un sacco di anni anche quello. Il chroma key analogico, che era praticamente un filtro sul segnale su una determinata frequenza, che in modo che diventasse trasparente rispetto a tutto. È comunque una roba da elettronica analogica, di quella che piace a Davide, no? Quella con tutti i condensatori. Con i relè. Ci stanno i relè, Davide? I relè ci stanno? C'è, penso che all'epoca ci erano tanti di relè. Tra l'altro, questa cosa delle trasmissioni riprenderanno il prima possibile non è che succedeva solo nei grandi eventi o magari nei collegamenti, a volte succedevano anche nei programmi in studio, perché comunque magari esplodeva la telecamera oppure andava via la luce. Cioè, ragazzi, ovviamente nell'ambito di un contesto dove era tutto progettato perché le cose non succedessero, non è che insomma c'era la soluzione immediata come ci potrebbe essere oggi. Magari succedeva veramente un cortocircuito, un problema, e anzi che avevano comunque la prontezza dei riflessi, che a volte non era neanche tanto prontezza dei riflessi, di mettere il cartello e le trasmissioni prenderanno il prima possibile. Sì, a me è capitato, se ricordo, di trasmissioni che sono state interrotte e mai più riprese, e le hanno annullate o rifatte in un altro momento. Succedeva. Cioè, quando il danno era grosso, si è rotta la telecamera, o si è rotto la centralina che pilotava tutte le telecamere, il pezzo di ricambio arriva domani, non bisogna fare niente. Anche perché di questo ne abbiamo parlato. Se voi avreste modo comunque sempre un po' di documentarvi, ancora negli anni 70, piano piano le cose cambiavano negli anni 80, ma pure negli anni 80, le telecamere da studio erano dei baracconi, cioè nel senso erano delle astronavi. Sì, esatto, erano delle robe 100 kg. Bravo, erano delle robe grandissime. E voi immaginate, noi oggi siamo abituati a vedere partite di calcio dove ci sono le coperture, da quello che ho capito, sono più dei 25 telecamere. 25 telecamere tra ovviamente supporto tecnico e ufficiale a supporto aggiunto del canale televisivo. Ma cioè, una volta, se c'erano tre delle telecamere in un campo di calcio, erano già tanto. C'era quella centrale, una dal basso e una di dietro alla porta. E basta. Ricordo partite da piccolo che vedevo che ce n'era una di telecamera. Probabilmente sì, diciamo una sola. I secondari avevi la telecamera, sì, che riprendeva dalla tribuna centrale. E andava, esatto, a destra e a sinistra. Fine. Esatto. E poi si lavorava di zoom. Ti guardavi tutta la partita così. Sì, sì, no. Diciamo che poi, insomma, diciamo che già negli anni 70 si usava almeno la telecamera da campo, almeno la telecamera dietro la porta. Nelle, no, era... partite più importanti. Sì, sì, quelle più importanti, certo, è chiaro, perché poi alla fine comunque era un costo e poi quelli erano comunque strumentazioni. E da lì ritorniamo al motivo per cui abbiamo già spiegato, perché non le fiction, ma i teleromanzi, no, quelli là che facevano, insomma, sulla Rai, no, quei, come si chiamavano, manco mi ricordo, praticamente. E le parti interne si vedeva che erano girate in analogico sul nastro e le parti esterne erano girate su pellicola, perché la cinepresa era più agevole, no, da utilizzare, per quanto c'era il costo ovviamente della pellicola in sé. Quindi ecco, sa, tutte queste tecnologie che piano piano hanno comunque aiutato a crescere la televisione, a migliorare la televisione e ad aumentare la sua portata dal punto di vista nazionale e internazionale, hanno comunque creato un momento di grande trasformazione e anche di presa di coscienza, perché comunque appunto, come diceva prima Carlo, Madrid, ci sei lì in Madrid, in un'ora sei, un'ora e mezza sei arrivato, però una volta non era così, cioè, chiaramente, ed era come se fosse un altro mondo. E a volte nel nostro vivere, nella nostra singola realtà, lo escludevamo anche, cioè, sapevamo che c'era il resto del mondo, ma sti cazzi anche, no, a volte. E invece in realtà, ecco, la curiosità di vedere un altro stadio, altre genti, altre lingue, comunque ecco, anche negli eventi, insomma, secondo me forse l'Eurovision Song Contest in questo ancora di più aumentato, perché sentì le canzoni che altrimenti non avresti sentito, perché non so, negli anni 60, sì, poi piano piano negli anni 70, quando sono arrivate le prime radio private, sì, però insomma un pezzo della radio italiana trasmettesse tutta sta roba straniera, insomma. No, no, no, anzi, l'usanza negli anni 60 era di tradurle le canzoni straniere. Tra l'altro, sì, poco. Sì, che con delle storpiature. Per farle ricantare agli stessi. È vero. Tra l'altro questa operazione la fece Sting negli anni 90, non so se ve lo ricordate. Sì, sì, c'è stato qualcuno che l'ha fatto anche dopo, ma ormai negli anni 80-90 era normale ascoltare la musica, sì, internazionale. Diciamo che i Beatles furono il primo punto di svolta e poi da lì in poi tutti gli altri, quindi poi fine anni 60, poi anni 70. Però per tanti anni io, mia madre portava a casa un sacco di 45 giri, quindi io da piccolo ascoltavo tanti 45 giri, perché mia mamma ha lavorato, quando io ero piccolino, lavorava a uno studio di una casa discografica a Milano, faceva la segretaria lì. Che figo! Di Renato Carosone. E portava a casa i 45 giri che venivano dismessi dai jukebox, praticamente. Quelli con scritto sopra "non per la vendita". Ah, ok. Sì, sì. So, che erano quelli che mettevano nei jukebox. Quando cambiavano i jukebox, li buttavano via. E allora mia mamma si portava a casa questi pacchi di dischi. E io mi ascoltavo musica. Negli anni 70 ascoltavo un sacco di musica degli anni 60, no? Bandiera gialla, cose di questo genere. Andiamo su sul. Perché sai. Eri anche fortunato, tutto sommato. Perché comunque... Avevo il mangiadischi. E quindi cosa fai da piccolo? Cioè, il mangiadischi lo devi usare, no? E quindi butti dentro i dischi per ascoltare cosa sono. Poi avevi una pila di dischi. Poi ti raccomando, i dischi venivano conservati senza la la carta, quindi immaginati dopo due o tre giorni esatto, no, poi comunque già avevano fatto un anno dentro i jukebox, erano già tutti consumati, graffiati, sentivi più scoppietti che musica. Però quello che mi ricordo era che c'erano un sacco di canzoni che poi negli anni ho scoperto essere canzoni famose straniere, che in realtà erano cantate da cantanti italiani. Vabbè, ma a volte anche dai cantanti stessi americani che venivano. Io mi ricordo alcune canzoni di Polanca e Nils Sedaka, no? Cioè, nel senso, per esempio, che venivano tradotte in italiano e a volte le ricantavano loro. Cioè, nel senso... Mi ricordo, vabbè, Celentano con Stand By Me, che era diventata un'altra canzone. Adesso mi ricordo il titolo in italiano. Esatto, non la ricordo neanch'io. Comunque ce n'erano tante. Erano tutte riga da Rita Pavone, Celentano. Sì, diciamo Celentano due o tre l'ha fatte. Tra l'altro una era quella là, ti uccidono da quando sei già in pancia, che chiaramente è una canzone contro l'aborto, perché ricordiamoci che lui faceva il rock and roll, però poi alla fine era Don Bigotto e Don Conservatorismo fuori da... dalla grazia di Dio, insomma, quindi. E vabbè, comunque, ecco, questo era il mondo analogico, ragazzi. Il mondo analogico oggi tutti lo che bella roba analogica. Tra l'altro con Carlo avevamo un progetto, poi chissà se un giorno proviamo a metterlo su. No, insomma, c'è il progetto, il problema che vabbè, dai. No, no, vabbè, non è che adesso dobbiamo discutere, però dico sarebbe bello perché comunque vi rendereste conto. Ci sono dei video da pubblicare da un po'. Appunto. Sì, lo so, vabbè. Ecco. Comunque, al di là di quello, cioè, c'è anche un altro progetto. Non è che questo adesso implica che le due cose sono correlate. No. Però ecco, quando un giorno lavoreremo anche a quel progetto, se lo faremo, perché poi dipende anche, insomma, dalla buona volontà di entrambi, diciamo così, vi renderete conto, e già lo sapete, già lo vedete, roba del genere, che tutta questa mitologia oggi sì, è figo pensare, pure a me ogni tanto mi piace andare a vedere come si vedeva una cosa in un determinato contesto, perché comunque mi ricordo, però oggettivamente, cioè nel senso, come nella musica, nella televisione, in altre situazioni, comunque alla fine faceva schifo, cioè nel senso, la roba faceva schifo, e la definizione televisiva era una cosa terrificante, insomma, cioè, e questo, insomma, alla fine ha portato, comunque, voglio dire, cioè, è migliorato col passare del tempo, quando arrivò l'alta risoluzione. Non so se vi ricordate i mondiali del 1990, quelli in Italia, che tutti facevano un gran cancan dicendo che le trasmissioni venivano, che le partite erano trasmesse in alta risoluzione, che non ho mai capito che era cazzo. Il tentativo di primi tentativi di fare uno standard per l'alta definizione, la televisione in quella che poi abbiamo conosciuto nel momento del digitale con l'HD, ecco, però era un'alta definizione analogica, che però in realtà non ha mai sfondato, non ha mai, sì, esatto, si chiamava Mac, se non mi ricordo, Mac o HD Mac, e comunque è stato un parto difficilissimo, perché esistevano tre o quattro standard che sono poi quelle cose che uccidono le iniziative, no? Perché inizia sempre con quattro consorzi diversi che fanno quattro standard diversi, qualcuno deve vincere, e alla fine in questo caso hanno perso tutti. Io mi ricordo, però mi ricordo una cosa, e anche se io non l'ho, cioè nel senso, sono testimone diretto ma non diretto, cioè un po' adesso ve la spiego questa cosa, perché io mi ricordo che a volte tramite la presa SCART utilizzavo praticamente il monitor dell'Amiga 500 come televisione, ok? Certo, sì. E chiaramente l'impatto dal punto di vista, cioè l'immagine sembrava molto più pulita, no? Cioè nel senso. E quando ci fu questa cosa, una volta fu una partita di tennis trasmessa sempre con questa alta risoluzione, e mio fratello diceva, in effetti, cioè, in effetti c'è più dettaglio. Io sta cosa sta cosa non la vedevo, cioè nel senso, no, infatti non c'è, cioè, era semplicemente che il tubo catodico del monitor era qualitativamente migliore rispetto al tubo catodico del televisore normale, quindi lo vedevi meglio in ogni caso, ma la definizione era esattamente la stessa, il PAL 720x576 interlacciato. Tra l'altro era bellissimo, perché ricordiamo il monitor dell'Amiga, cioè aveva il famoso pulsantino che faceva il filtro che emulava il fosforo verdi, e quindi tu vedevi dalla televisione che praticamente diventava dei due colori, cioè il verde e il nero praticamente. Esatto. No? Sì, perché in realtà semplicemente toglieva le componenti rosso e blu e lasciava solo la componente verde del segnale RGB. Quindi non è che devo dire che cioè, quando magari stavi lì e scrivevi, cioè nel senso facevi il codice, no? Magari in Amiga Basic, queste cose qua, insomma, devo dire che poi tutto sommato era anche carino come tipo di situazione, però beh, cioè nel senso lo vedevi che non era un monitor a fosfori verdi, insomma, poi il verde proprio distruttivo, quello che ti uccideva l'occhio. Comunque, per esempio, una volta, se ci capiterà, Carlo ha lavorato per esempio negli anni 80, anche insomma lavorava come tecnico nelle televisioni, se non sbaglio tu facevi la grafica per le televisioni, no? Sì, quindi magari sì, una volta ne parliamo anche di questa cosa, insomma, in Gmail e facevamo l'assistenza per gli apparati, perché c'era all'epoca, lavorando per la Commodore, noi eravamo sviluppatori di Commodore, c'è stato quel periodo dei primi anni 90 dove in pratica l'Amiga era uno standard nelle regie televisive di mezzo mondo, no? Tu andavi in qualunque studio TV e da qualche parte c'era attaccato un Amiga, perché era una macchina che pilotava molto bene il segnale video televisivo analogico e costava molto meno dei titolatori professionali. Poi dopo cosa è successo? Si è iniziato a fare del software broadcast molto potente, quindi poi è stato venduto anche dalle società che facevano strumentazione televisiva, nascondendolo dentro o comunque mettendolo dentro, no, per pilotare titolatori, video, certo, eccetera. Ed era il periodo analogico ancora, quindi tutta la televisione funzionava in maniera analogica, ma dove si iniziava appunto a utilizzare il computer per fare qualcosa. Sì, e io infatti su Amiga mi ricordo che c'era proprio un software specifico per la titolazione, proprio. Ce n'era più di uno, ce n'erano con i template, con le cose sotto pancia, Aegis, sì, esatto. Protite, ne sono nati una ventina, tra cui uno anche poi alla fine degli anni, metà anni 90, fatto in Italia da una società di toscana, adesso non mi ricordo più il nome, però pensa che questa società esiste ancora oggi, e ancora oggi fa software per la titolazione televisiva con ovviamente gli strumenti digitali di adesso, però loro erano partiti facendo software per la titolazione su Amiga all'epoca ed esistono tutt'oggi, come tante altre società, come la Newtek, l'americana, quella che fece il famoso video toaster, no? Ah, beh, sì, certo. Che colonizzò praticamente tutto il mercato energetico. Beh, sì, era il riferimento per eccellenza, no? Esatto. E, vabbè, insomma, in quel periodo lì, noi lavorando per la Commodore, iniziamo a lavorare per le televisioni private, iniziai da TV tipo Rete 7, piccolina, che era una TV privata, poi andammo a Antenna 3, Lombardia, poi Italia 1, il circuito Fininvest, la RAI anche, venne usato diversi anni nel Giro d'Italia, in alcune trasmissioni. Vabbè, in quell'epoca girai abbastanza l'ambiente televisivo, però ormai le mie competenze non valgono più nulla, perché dopo io mi fermai, diciamo, verso la fine degli anni, nel 97-98, mesi di fare questo, quando iniziava la transizione dall'analogico al digitale. Ritornai nell'ambiente per puro caso televisivo anni e anni dopo, quando vi dovetti occupare di streaming web sotto un altro cappello per la Scala di Milano, per trasmettere le trasmissioni i concerti della Scala in streaming, e lì ritornai in contatto di nuovo con l'ambiente televisivo. Era cambiato tutto, ma proprio tutto, cioè non c'era più niente di quello che ricordavo io, e era tutto completamente diverso, quindi era una cosa incredibile. Infatti nel giro di pochi anni stato completamente rivoluzionato, e i tecnici nuovi ovviamente non sapevano niente di quelli vecchi, e quelli vecchi che guardavano le cose nuove, quelle vecchie ovviamente non se ne ricordavano più. Quindi anche adesso, se vai in uno studio televisivo a tentare di interfacciare un vecchio segnale video, trovi gente disperata perché non sa più come. Beh, immagino che poi soprattutto le generazioni più giovani magari proprio neanche hanno idea, no? Sì, poi ti adesso presenti con uno SCART, dico, cos'è sto coso? Eppure sai che ancora alcuni televisori ce l'hanno. Lo SCART è sempre stato una cosa terribile, consumer, terribile. Nella televisione non c'è mai stato, in uno studio televisivo la scarta non è mai entrata neanche, immagino, cioè, anche perché lì in un angolino, anche perché proprio si rompeva ogni due per tre, cioè nel senso, sì, lentini, sì, no, non è mai stato un connettore broadcast lo scart. Ci sono sempre stati altri connettori, BNC prima di tutto ovviamente, ma come standard c'erano i segnali component RGB, certo, vabbè, quelli classici, ma dall'altra parte oggi invece quando si è passati al digitale, si è, per esempio nel broadcast si usa l'SDI, no? Che è un segnale, esatto, che te lo dice la maggior parte della gente, ti guarda anche lì, dice che cos'è, cosa stai dicendo, che gira sempre con il cavo coassiale, quindi alla fine utilizza gli stessi cavi che si usavano una volta, però è completamente digitale, quindi vabbè, considera che per esempio io una volta andai dentro gli uffici della FAST a Roma e praticamente, cioè lì in quel periodo lì negli anni 90 si è passati dal rendering sul nastro fotogramma per fotogramma al tempo reale nell'arco dei dal montaggio lineare al montaggio, esatto, in meno di 10 anni, cioè nel senso comunque la trasformazione, il cambiamento è stato velocissimo, 3-4 anni, esatto, infatti, sì. tra il 97 e il 2001, fai quegli anni lì più o meno, ma rimanendo in aspetto tecnico, la seconda e ultima rivoluzione, insomma, diciamo, che tratteremo questa sera e che ha cambiato molto la televisione, in particolare in America, ma anche insomma in tutto il resto del mondo, soprattutto chiaramente negli eventi sportivi in maniera particolare, perché era quasi d'obbligo, anzi in alcuni eventi sportivi è stato quasi necessario o ha aiutato comunque magari alla risoluzione di alcuni problemi, tipo credo un risultato di un incontro di box addirittura, per capire insomma che, anche se poi dopo questa cosa è stata regolamentata fino ad oggi, che insomma sono passati 40 anni, 50 anni e abbiamo il VAR in campo, ma insomma al di là di questo, ed è quello dell'instant replay, che sembra una cosa banale, no? Perché noi oggi appunto vediamo slow motion, ripetizioni a rotta di collo con le 15 e più telecamere su tutto l'ambito di un campo di calcio o evento sportivo olimpico o qualsiasi esso sia, ma in realtà insomma quando, non so se negli anni 70-60, Davide, insomma, si è ideata sta cosa, penso che insomma le cose erano molto molto diverse. Sì, già si parla anche degli anni 63, nel 63 è stato fatto un esperimento, è stato puramente un esperimento, però diciamo che ha cominciato a diventare un prodotto. È curioso pensare che in quel periodo, negli anni 65-66, la videoregistrazione già esisteva su un nastro, sì, sì, ed era già stato inventato il concetto della registrazione con la testina elicoidale, che è una testina che ruota intorno al nastro per aumentare la velocità relativa, no? Perché il nastro si muove a una certa velocità, ma per registrare il video ci sarebbe voluta una velocità molto elevata e consumavi bobine di nastro per registrare pochi minuti di trasmissione. Allora con la testina rotante, che è quello che c'è stato in tutti i nostri videoregistratori che abbiamo avuto, aumentava la velocità relativa e si utilizzava un nastro che andava a velocità, diciamo, più lenta. E qui in quel periodo, in quegli anni, ovviamente le trasmissioni sportive, che erano quelle che portavano anche più soldi ovviamente alla televisione, ha consentito, come in tutti questi settori, come la Formula 1 eccetera, di inventare delle cose che all'epoca erano quasi impensabili, perché appunto c'era l'esigenza e a qualsiasi costo bisognava farla. Non ho trovato informazioni sui costi di questi dispositivi, ma immagino che costavano dei miliardi di non so quanto. E appunto nel 65 fu progettato questo dispositivo che consentiva una registrazione non su nastro ma su disco, come a vista. Adesso metto un'immagine sul nostro gruppo, diciamo, della diretta. Era un disco come ci immaginiamo un hard disk, il disco di un hard disk molto grande, era un discone molto grosso che pesava 2,5 kg e ruotava 60 giri al minuto e tramite... 2,5 kg solo il disco o tutto l'apparato? Solo il disco, perché pesava io 600 kg. Leggendo un po' qua e là, alla fine ho letto che insomma tutto il dispositivo andava sui 600 kg. Esatto, no? Sì, pesava 600 kg, un mostro. c'era sto disco che ruotava. Tu immagina dentro una regia televisiva che allora insomma arrivano questi, oh, con sto coso che ci dobbiamo fare con sto no, coso? No, ma lo guardavano e lo osannavano, cioè, ah, ce l'abbiamo, ma tu, tu immagini quanto poteva costare. Era una roba che andava a valvole, perché nel 65 a valvole andava, quindi dentro non so cosa c'era quel coso. E aveva tante testine magnetiche e il concetto di funzionamento era quello di un hard disk, quando ancora in quel periodo l'hard disk era, forse stava appunto nascendo anche lui, però il concetto di registrazione digitale ancora era lontano, e questo oggetto registrava video analogico come se fosse un nastro magnetico, ma in realtà era un disco magnetico che girava velocemente tante testine. Questo consentiva di registrare fino a 30 secondi di video. Okay. E per come era realizzato era facile poter rallentare la velocità di visione e di fermare l'immagine e quindi immediatamente tornare indietro, ma proprio all'istante spostavi le testine e ritornavi a 30 secondi prima. Che poi il produttore gli era l'Ampex, no, giusto? Sì, era l'Ampex. Che poi tra l'altro si chiamava, lo chiamavano Ampex. Ma ancora, ancora oggi, esatto. Comunque tutti quelli che sono i contributi registrati vengono chiamati Ampex, si, ma ormai si sente ancora. Sì, che poi tra l'altro non è ridicolo, perché in realtà non c'ha più niente a che fare, no? Però insomma, diciamo che c'ha questo aggancio storico al fatto che per esempio i primi tentativi erano solo 10 secondi, poi 30 secondi, no? E tu sì, ovviamente, che ne so, immagino, perché voi immaginate in un evento sportivo 30 secondi non so un cazzo, cioè nel senso oggi 30 secondi non so un cazzo, però tu quando vedevi, che ne so, una squadra che stava per andare in attacco, avviavi la registrazione, perché no, ma penso che registrasse sempre, poi dopo nel momento però manteneva solo 30 secondi. Esatto, erano 30 secondi. Ah, vedi, interessante. E all'inizio la prima versione era proprio sì, sennò era impossibile a gestire, insomma, era un po' complicato, no? Sì, se no lui registrava sempre, appena arrivava l'evento tu fermavi quell'affare lì e te lo 30 secondi precedenti e lo ritrasmetteva nella regia televisiva, giustamente. Esatto. E all'inizio era fatto da due bottoni, due robe, poi più avanti nel 71, abbiamo dovuto aspettare un po' di anni, è uscita la versione con una specie di centralina con dei pulsanti, che poi è diventato definitivamente lo standard in tutti, ce l'avevano tutti in pratica nel 71, che comunque 71, voglio dire, tanti tanti anni fa c'era sto coso in tutti gli studi televisivi con un comando che ti consentiva di tornare indietro. Adesso ho postato l'immagine, il misuratore di tempo era la lancetta che ti diceva torna indietro 10 secondi. Beh, ovviamente, giustamente. Si spostava la lancetta di 10 secondi prima e lui andava 10 secondi prima. E un po' di pulsantoni, e sarà stato pieno di relè, pieno di valvole, sicuramente. No, poi tra l'altro, perché poi si parlava ovviamente di possibilità di rallentare, di fare il fermo immagine, no? Immagino il fermo immagine, chissà se era sfligherante, no? No, era analogico, era perfetto. Perfetto. Le testine stavano ferme e lui registrava un frame. Registrava. Sì, ho sbagliato. Perfetto, fliccherante, però c'ha ragione. Era fliccherante, non ma tanto, ma sicuramente. Ma mica tanto. Beh, comunque. Per forza deve essere. È comunque interlacciato, quindi. Cioè, era interlacciato, esattamente. Un minimo. Ma registrava 60 giri al minuto, registrava i due semiquadri in un giro di disco e le testine si muovevano per cambiare ogni frame. Se tu fermavi le testine vedevi un solo frame, sempre quello, e si vedeva. Il singolo frame era composto da due semiquadri, quindi era interlacciato. Vabbè, però lui registrava con tante testine. Vabbè, comunque senza. Sì, comunque dai, ma non entriamo in questa diatriba, che poi ci documenteremo su questa cosa, perché la curiosità ce l'ho. L'unica cosa è che, ritornando sempre ai famosi campionati del mondo di calcio del 1970 in Messico, dove giustamente nel prediretta, giustamente Davide mi ha detto: vabbè, ma magari i messicani non c'erano i soldi. Tanto mi fa. No, però diciamo che c'era l'instant replay nei gol delle partite, ma era a velocità normale, cioè non era rallentato. Il rallenti entra successivamente negli eventi sportivi, quindi evidentemente sì, già lo facevano, magari non era oppure non era interessante forse, o forse non era facile da gestire, chi lo sa, no? Perché poi non è così facile riuscire a capire un po' come funzionavano queste cose, insomma, no? Però poi ho letto il dispositivo lo faceva probabilmente, okay. Televisivamente non era così accattivante, forse, non lo so, vederlo a rallentatore, perché la cosa del rallentatore è subentrata un po' dopo, perché comunque era anche magari le prime versioni, come hai detto tu prima, sto dicendo, sparando a caso, perché non è che, però magari ai messicani hanno dato uno di terza mano, la versione quella senza i comandi aggiuntivi della, sì, aveva pochissimi comandi, faceva giusto lo spostamento delle testine, perché esatto. non c'era il concetto di vediamo 10 secondi prima, c'era proprio, era un hardware creato appositamente, diciamo, anche le prime versioni non avevano il, diciamo, l'avanzamento quello rallentato, e le versioni successive sì. Penso che sia, possa essere una cosa del genere. All'inizio era veramente un comando manuale dove tu vedevi le testine che le spostavi tu a mano quasi, cioè, era una roba molto molto spartana, anche se l'aspetto era di un dispositivo insomma serio. A parte che la foto che ho fatto vedere è già del modello più avanzato del 1971, con la centralina di comando che, se la vedete, sembra una roba delle centrali. Certo sarebbe affascinante vedere un oggetto del genere a qualche mostra, qualcosa, magari ci sarà, penso che museo della storia della televisione, sai, quelli sì, bisogna andare in posti, non è facile ritrovarli specifici, perché gli strumenti, certo, broadcast non avevano la diffusione del consumer, quindi è per questo che è più facile, non so, adesso trovare un computer degli anni 70, sì. Lo trovi, che era molto diffuso, non trovi invece un mainframe o... Sì, però sai che la RAI ne aveva uno probabilmente, no, ma magari la RAI, che comunque poteva attingere risorse, ce n'aveva anche due, io non è voglio dire, però la RAI forse da questo punto di vista aveva il vantaggio che, essendo un ente pubblico, comunque non c'era il funzionario che diceva questo lo buttiamo, cioè secondo me mettevano tutto al pizzo in qualche maniera, proprio perché nessuno si sarebbe preso la responsabilità di prendere un oggetto che alla fine era un oggetto d'estato, cioè nel senso era da traduci, mettiamo tutto al pizzo vuol dire lo vendo, no? In pratica no, mettere tutto al pizzo significa mettere tutto in cantina, ecco, diciamo così, conservare, okay. Non è, sì. hai ragione, scusa, mi perdo vabbè comunque hai imparato una cosa nuova, insomma, no? Tra l'altro questo lo voglio dire, che anche quando poi negli eventi sportivi, oltre a il replay era anche rallentato, ricordiamo sempre che dovete completamente cancellare dalla vostra immagine quelli che sono i replay che vedete oggi, cioè dove ovviamente ci sono camere specifiche che registrano a 500 1000 frame al secondo, e quindi ovviamente quell'immagine rallentata è iperfluida. Dovete immaginare che comunque lì il segnale, le telecamere comunque erano a 50 fotogrammi interlacciati, quindi quando tu vai a rallentare vedevi comunque l'effetto, credo, la palla che si allungava, cioè vedevi tutta quelle cose, perché ovviamente il numero dei fotogrammi quelli erano, cioè non è che se andava a scattare, e quindi vedevi questa cosa scattosa quindi alla fine, cioè nel senso, a volte dicevano ecco questo è il momento in cui facevano avanti e indietro, non so se vi è mai capitato, guardate questo è il momento, e poi non si capiva un cazzo perché giustamente era tutto col motion blur, no? Cioè, ovviamente sì, con l'effetto di movimento. Due ciclisti arrivavano contemporaneamente alla linea. Hai capito? Cioè, nel senso, vabbè, lì c'erano sistemi di rilevamento diversi. I foto finish. Esatto. Però il foto finish. Però anche i foto finish dell'epoca erano, cioè, tra un frame e l'altro si vedeva un bel passaggio, invece adesso sì. Magari. Sì, però magari il dispositivo con cui facevano veramente il foto finish, magari era un dispositivo specificatamente progettato per far quello. Penso che era fotografico, se fosse esatto, sì, esatto. Ottico, esatto. Fotografico. E quindi, ci può anche stare che fosse attendibile, no? Magari con una velocità di otturazione velocissima, e quindi lo scatto era preciso al millimetro, no? Cioè, nel senso, può anche sta, no? Però sì, non solo, ci mettevano anche in maniera ottica le linee di riferimento del traguardo, così eri sicuro di chi aveva tagliato il traguardo per primo e chi per secondo. Ecco, questo secondo me il replay è un po' cambiato, no? Il fatto perché comunque, come dicevamo tante volte, poi ovviamente quando si aggiunsero anche più telecamere, il discorso che tu, quando vedevi l'evento sportivo, spesso e volentieri, come dicevamo, lo vedevi nel bar o lo vedevi comunque una televisione che non è i mega schermi che ci abbiamo oggi, e quindi quella cosa dell'instant replay ti permetteva, ha dato un servizio fondamentalmente, no? Che ha cambiato anche lo sport fondamentalmente, perché chiaramente poi piano piano negli anni cose che insomma non si devono fare non venivano più fatte, perché magari, cioè nel senso, comunque dice, vabbè, magari la scorrettezza, quello non te vedeva, non c'era il replay, ma me l'ero passata liscia, no? Invece magari comunque con queste cose si è portato insomma un po' più di ordine. Da un punto di vista dell'applicazione più generale, diciamo che forse l'instant replay serviva fondamentalmente a poco, se non ovviamente negli eventi sportivi o anche... Sì, sì, esatto. Beh, però come ti dicevo, lo sport è quello che ha fatto crescere la televisione, molto, perché portava molto, tanti, è vero, soldi. È vero, è vero, è vero. In generale, quindi, le trasformazioni tecniche e tecnologiche che hanno portato lo sport negli Stati Uniti come traino, ma poi in realtà anche in tutto il resto del mondo, in particolare il calcio, cioè da noi comunque, esatto, in generale il calcio, escludendo gli Stati Uniti, anche se oggi non li possiamo neanche più escludere perché oramai hanno un campionato professionistico competitivo anche loro, comunque nel senso, nel resto di tutto il mondo poi il calcio è stato il punto focale, e ogni volta che tu vedevi un evento sportivo, quindi dei 4 anni in 4 anni che c'erano i mondiali, vedevi delle differenze dal punto di vista loro tecnico e tecnologico, e questo ovviamente insomma ha fatto tanto la differenza. Per esempio nell'82 già si utilizzavano le scritte elettroniche, sempre magari col chroma key analogico che diceva prima Carlo, no? Sì. Mi ricordo che tu stesso, Carlo, una volta hai forse postato una foto di una gara ciclistica dove, Spectrum, esatto, dove sotto i risultati c'era scritto ZX Spectrum, cioè da, sì, quando hanno cominciato ad essere usati anche gli home computer, sì, per questo tipo di cose, che chiaramente avvantaggiavano moltissimo insomma da questo punto di vista, insomma, scritte lampeggianti, cose molto basiche che oggi ci fanno ridere, però insomma allora funzionavano. Ecco, questo insomma sono un po' oggi gli... addirittura gli instant replay fanno le ricostruzioni in tempo reale in 3D, assolutamente, ma non soltanto quello, vabbè, oggi questa è una cosa che è nata col rugby e poi chiaramente si è espansa anche negli altri sport. Quando inizia la partita di rugby, quando iniziava, ma questo io ti parlo veramente già di più di 10-15 anni fa, già si usava di mettere in prospettiva sul campo in sovraimpressione lo stemma della squadra ospitante. Ah, sì, sì, sì, ok, quando in realtà quella cosa non c'era, cioè nel senso, quindi a noi ci sembrava, ecco, vedete la tecnologia virtuale che ci permette di fare, perché poi ovviamente la cosa bella era quando il cronista della televisione pubblica ti doveva spiegare, tu che sei stupido, una cosa che lui è ancora più stupido di te non te la sapeva spiegare, no? Cioè nel senso, quindi alla fine era un po' divertente questa cosa. E tutte queste tecnologie che oggi sono anche belle, perché comunque rendono scenico ancora di più quello che ovviamente già lo era. Allora lo sport era meno scenico già di suo, perché gli atleti d'allora non so certo gli atleti di oggi, e soprattutto ovviamente anche la capacità televisiva di rendere più spettacolare. Quindi sai, c'è questa cosa, perché molti dicevano che il calcio era noioso, perché la televisione lo faceva ancora più noioso di quello che era, cioè nel senso, con i telecronisti che parlavano ogni quarto d'ora e via dicendo, insomma. Comunque vabbè, queste sono quelle, detto, tra quelle tecnologie che oggi sembrano scontate, ma che c'è stato un momento in cui ovviamente hanno rivoluzionato tutto, insomma. Cosa pensate di questo? Beh, sicuramente, come ti dicevo, queste tecnologie, come anche adesso parliamo della Formula 1, che in realtà non lo voglio mettere sul lato televisivo, ma sul lato proprio è uno sport che ha portato poi a costruire delle automobili, insomma ogni evento poi porta dei miglioramenti in altri settori o in tante altre cose, e in questo caso la televisione ha fatto tecnologicamente dei passi da gigante, perché comunque circolavano tantissimi soldi, e noi adesso abbiamo parlato di instant replay, abbiamo parlato del VAR, abbiamo parlato di 3 cose, ma ce ne sono migliaia che poi le abbiamo ritrovate nei nostri videoregistratori, nei nostri dispositivi, sì, vero, le abbiamo trovate nelle nostre televisioni, eccetera eccetera, perché grazie a tutto questo che noi neanche lo vedevamo, perché sai, noi non la vediamo la tecnologia, o la vediamo in piccolo piccole parti, no? Non vediamo magari lo sforzo che c'è dietro. Vediamo una riga che insegue la barca di Luna Rossa, che indica la velocità del vento e la velocità, la distanza rispetto alle altre barche, poi noi vediamo solo una riga, ma dietro c'è GPS, rilevatori, certo, sì, oggi sì, certo. Gente che ci lavora, ma altre 10 barche intorno a quella che prendono tutte le quote, le misure. E poi questo ci porta ad avere quello che oggi, insomma, l'avanzamento tecnologico, anche la televisione nel suo piccolo ha partecipato a far crescere quello che è tutto il mondo tecnologico che ci sta attorno, inclusi anche i computer, tutto proprio perché tutto, sì sì, beh, nel suo piccolo, nel suo grande direi, sì, nel suo, all'epoca nel suo grande, oggi magari forse ci sono altri settori che stanno portando migliorie tecnologiche, la TV le sta subendo per cercare di riattirare ancora un po' le persone a guardare questa cosa che non guarda quasi più nessuno, insomma. Beh, comunque consideriamo anche che per esempio, questa è una cosa magari che anche qui andiamo un po' negli anni 90 e c'entra relativamente, però per esempio io avevo un videoregistratore con una plancia di comando molto avanzata che poteva essere utilizzato sia come lo utilizzavo io come sistema di supporto per il montaggio analogico, ma poteva anche essere utilizzato come sistema ausiliario proprio per gli istant replay all'interno di magari, che ne so, la partita che facevano su Tele Torvaianica, cioè nel senso che magari facevano vedere le partite provinciali e c'avevi l'opportunità di fare un proprio con la manovola di tornare indietro velocissimo e cominciare a fare il replay di quello che ovviamente sempre dallo stesso punto di vista e dalla stessa unica telecamera con la quale stavi lavorando. Però ecco, nel senso, come dice Davide, poi alla fine queste ultra tecnologie incredibili alla fine poi ce le siamo trovate anche dentro casa per chi era interessato, ma soprattutto abbiamo cominciato a darle per scontate perché ecco, come diceva, cioè, oggi vede un coso del genere, penso che porti un tecnico televisivo a fargli vedere sto disco qua e quelli ti dice ma un hard disk. Sì, la cosa che più che altro mi fa sempre riflettere e in generale stupisce è l'estrema velocità con la quale tutto si è evoluto, tanto da rendere delle cose che erano questo non solo nel campo televisivo ma nel campo della tecnologia in generale negli ultimi, certo, 50 anni. La velocità di evoluzione è stata talmente elevata che alcune cose che erano fondamentali o meraviglie tecnologiche sono diventate rottame e dimenticate nel giro di 5-6 anni massimo, una cosa proprio di una velocità impressionante se ci pensiamo rispetto a tante altre cose che sono successe prima. E questo è quello che poi ripeto sempre nell'ambito della storia dell'informatica, che è importante la preservazione proprio perché è complicato ricordare perché sono successe determinate cose, proprio perché tutto è cambiato talmente velocemente che noi stessi che c'eravamo in mezzo spesso non ci siamo neanche resi conto di quello che stava succedendo e di cosa era successo prima, cioè ci siamo subito dimenticati di quello che si faceva fino un attimo prima perché è arrivata la cosa che lo faceva meglio, più veloce, più bello e tutto, certo, quanto. Quindi è no, è anzi noi non solo magari da ricostruire. Magari noi non solo, cioè non è che non ci rendevamo conto, è che ogni volta, io questo parlo dal punto di vista visivo in generale, no? Ogni volta che sapevamo che arrivava qualcosa di nuovo e non vedevamo l'ora di vedere quanto era nuovo, cioè nel senso, non so se avete capito il concetto, no? Nel senso, comunque nella trasmissione televisiva ad esempio l'arrivo delle grafiche, che come diceva Davide, il fatto che le televisioni poi si confrontavano a livello internazionale, questo ha portato una spinta ulteriore dal punto di vista sia della tecnica televisiva che del ritmo, della qualità. E dicevamo prima, dicevo proprio all'inizio, anche dal punto di vista giornalistico, ok, poi lasciamo perdere poi quello che è diventato poi il giornalismo in generale oggi, però dal punto di vista strumentale, tecnico, oggi comunque un reporter ha tutta una serie di plus, vantaggi dal punto di vista tecnologico e capacità tecniche che probabilmente una volta non c'erano. Una volta l'inviato come minimo c'era un'altra 3-4 persone dietro, cioè so se, se avete presente comunque l'inviato della RAI a Mosca durante il periodo del comunismo, c'aveva i suoi tecnici RAI che stavano lì, cioè con lui. Quindi oggi con Skype, magari sul campo di battaglia di una determinata situazione, oggi è tutto più instant, c'è, appunto. C'è solo il cronista con il suo telefonino. Col telefonino. Questo abbia portato una degradazione totale dal punto di vista della qualità, è un discorso, dal punto di vista dell'immediatezza del messaggio è un altro. Il che poi, tra l'altro, qui ultima riflessione, porta, cioè è un aspetto positivo, ma è anche un aspetto negativo, perché oggi il dover accelerare la notizia alla fine crea un problema dal punto di vista anche della verifica di quello che tu stai facendo, cioè del valore che tu gli stai dando. Cioè noi tendiamo oggi a storicizzare l'informazione piuttosto di renderci conto che una cosa è la notizia e una cosa è il contesto storico che si svilupperà fra decenni quando le persone ci studieranno sopra. Cioè questo è un po', non so se avete capito il concetto, insomma. Però anche questa è un po' una riflessione che fa parte di quella che poi la trasformazione appunto della televisione, che è partita dall'Eurovisione, quindi con un concetto anche ideale positivo, ma poi come tutte le cose, insomma, non sempre hanno lo stesso. Stiamo ancora facendo l'Europa, dai. Sì. Se tornassimo indietro in quegli anni, uno diceva nel 2022 chissà quanti avrebbero detto ma sì, nel 2022 l'Europa era unita anche da Mo, anche da dal punto di vista politico militare, tutto sì, certo, sì. Come no, guardaci qua dove siamo. Esatto, infatti sì, un po' triste questa cosa. Vabbè. E le autovolanti. Le autovolanti, io guarda, mi ricordo che negli anni 90, quando andavo insomma a scuola, c'era sta professoressa italiana che diceva sempre perché voi che vi aspettate che succederà nel 2000? E sarà tutto come oggi, non ci saranno le autovolanti. Ora, le autovolanti non ci stanno, ed è, insomma, poi è relativo anche questo. Le autovolanti non ci stanno, ma sicuramente dal 90 al 2000 ne sono cambiate le cose, cioè nel senso, quindi comunque alla fine noi lo percepiamo di meno perché vediamo la trasformazione in essere, però quando tu fai una trasmissione come quando eravamo futuro, guardi indietro e guardi adesso e dici cazzo, si è cambiato il mondo, cioè nel senso, a me mi viene anche da pensare, cioè io per ragioni mie purtroppo ho passato tanto tempo, o tante volte sono stato negli ospedali, e se penso all'ospedale del 1978, all'ospedale è un altro mondo, sì. Cioè, quando tu vedi i film, quelli vecchi, no, tipo degli anni 30, con questi ospedali tutti con le luci che si accendono e si spengono, con le bacinelle che gocciolano, e negli anni 70 stavamo così. Ma guarda, non, ne parlavo giusto l'altro giorno, non mi ricordo con chi, ma per esempio un'operazione tipo l'operazione al menisco, no? Cioè è presente un'operazione, certo. Non dico comunissima, però diciamo che ne senti parecchi che fanno l'operazione, a parte gli sportivi calciatori, può succedere anche, diciamo, alle persone normali. Quando ti operavano al menisco negli anni 70 era una roba che ti ingessavano dal piede fino all'anca e stavi col gesso per 2 mesi con la gamba che non potevi camminare, eccetera. E a parte poi lo sbrego sul ginocchio che ti tagliavano a fette praticamente mezza gamba. Adesso lo fai in day hospital, entri, ti fanno 2 buchini, ti fanno l'operazione al menisco, esci con le stampelle e puoi già camminare. Ma guarda, io ti dico ancora una peggio, cioè l'anca, incredibile. L'anca, mio fratello ha fatto l'anca il giorno, la mattina, il giorno, già del diciamo dal giorno dopo, però già la sera già si doveva alzare, capito? Perché doveva cominciare. Quindi è una cosa, l'evoluzione che c'è stata. Sì, ma io non parlo solo dal punto di vista tecnologico, e non ce ne rendiamo conto. Cioè io parlo pure dal punto di vista ambientale, dal punto di vista comportamentale. Cioè oggi negli ospedali, ok, non è sempre così dappertutto, succedono le merdate, quello che vi pare. Però oggettivamente voi, se vi lamentate di quello che è l'ospedale oggi, non sapete che cos'era l'ospedale negli anni 70, dove non soltanto stavi lì, eri buttato lì, nessuno ti parlava, nessuno ti spiegava, nessuno diceva niente, e quindi alla fine tu stavi lì e basta, cioè nel senso il loro consenso informato. Sì, cioè. Sì, loro disponevano di te senza che tu, e non fregava che un esperimento che girava in giro. Assolutamente, assolutamente. Poi se come a me è capitato che sono stato anche al policlinico, e quindi un ospedale universitario era la fine. Mia madre, io mi ricordo mia madre disperata, cercava quando arrivavano sti professoroni, no, i cattedrati con tutto il codazzo, no, dietro, e lei cercava di parlare con qualcuno, nessuno se la anculava, fino a che il ragazzetto magari più gentile se girava gli diceva qualcosa. Cioè no, se no ragazzi, ma stava scherzando, cioè, ma è che il mondo è in 30 anni, 40 anni non è cambiato, è di più, cioè è essere passati dal veicolo a vapore alle autovolanti, veramente, ve lo assicuro che è così, cioè nel senso senza autovolanti, però è così. Quindi alla fine la professoressa è cambiata in modi in cui noi non pensavamo cambiasse, esatto, magari e non nei modi in cui uno pensava avremmo voluto, esatto, esatto, quello sicuramente. No, quello sicuramente, questo è il bene e il male della situazione, però vabbè. Dai ragazzi, io direi questa puntata era così un po', però mi piaceva parlare della cosa dell'Eurovisione, perché, e quindi magari delle varie trasformazioni, abbiamo parlato anche dell'instant replay, l'abbiamo associato agli eventi sportivi, che è una cosa che magari spesso non frega niente a nessuno, che però invece, come abbiamo detto, sono state un po' di traino, no? Per quello che è l'evoluzione tecnica, tecnologica e anche culturale, insomma, dell'europeo in generale, dell'italiano nello specifico, insomma. E poi appunto faremo una puntata, non so quando, insomma, anche su Giochi Senza Frontiere, perché so, e lo so perché ho parlato con tanti di voi, che molti hanno un sacco di ricordi e sono molto affezionati comunque a quella cosa, come tutti noi, e anche a differenze generazionali. Io penso che abbia preso quasi 3 generazioni, perché a parte noi da ragazzini, poi c'è stato un periodo in cui l'hanno rifatto per un periodo di tempo, non so se ve lo ricordate, più recentemente, e poi dopo ovviamente non era più un format che evidentemente attirava l'attenzione del pubblico, e quindi l'hanno interrotto. Però ci sono molte mitologie dietro, ma non mitologie nel senso leggende, ma proprio figure mitologiche, cioè situazioni mitologiche, cose che hanno fatto, che sono entrate anche nelle espressioni comuni, no? Cioè nel senso modi di dire, modi di contare anche. Esatto, quindi insomma vedrete che sarà anche quella una bella puntata. Per il resto io ringrazio e saluto Carlo Sant'Agostino. Grazie e ciao a tutti, e ovviamente ascoltate, guardate, registratevi Archeologia Informatica, sia il podcast che il canale YouTube, e spero presto ci saranno tre video escono, usciranno 3 video a distanza di 3 giorni l'uno dall'altro, ragazzi. Va bene. Però non questo weekend, doveva uscire l'altro weekend, eh? 3 video a distanza di una settimana, una settimana dall'altro, vabbè, ok, dai, perché dici sennò poi dopo li abituiamo tutti troppo male. Esatto, diciamo, per mesi e poi 3 video. Esatto. Beh, ma noi facciamo così, è la nostra tradizione. Comunque salutiamo anche Davide Gatti, scusa Davide, non me... vabbè, Survival Hacking è l'anzianità, è l'anzianità. Sì, ma io oggi ragazzi ho fatto palestra, tra l'altro mi bruciano ancora le spalle, tra l'altro stavo a fare le flessioni, poi a un certo punto la tipa dice: ma tu ti rendi conto che sei diventato più forte? E io dico: ma vaffanculo. E noi questa volta avessi detto: sei diventato più forte, quindi al posto di 10 fanne 20. No, ma ha fatto un sacco di serie oggi, no, veramente è stata dura oggi, però bello, dai, avanti così. Comunque dai, saluto tutti e approfitto per ringraziare tutti coloro che sono venuti a trovarci al Como Fan settimana scorsa, e con l'augurio di vederci al prossimo appuntamento, che dovrebbe essere Gardacon, giusto Carlo? Chiari Gardacon. Dai, basta ragazzi, basta tutti, ragazzi, noi andiamo a spacciare la nostra parola, esatto, bravi, ma soprattutto diventate famosi. Ma niente, detto questo, poi ovviamente vi vedrete con loro i prossimi raduni, se non vi vedete speriamo che non sia colpa vostra, insomma, cioè, perché è una cosa più importante. Questo è un detto romano che insomma, probabilmente l'avete capito. E grazie a tutti e ci vediamo la prossima puntata.